Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buona giornata, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, una trasmissione di attualità, cultura, musica, concepita considerando gli animali non umani per quello che sono, ossia nostri compagni di strada nell'avventura sul pianeta Terra. Piccole persone, per dirla con Anna Maria Ortese, la grande scrittrice napoletana. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Cominciamo questa puntata andando idealmente nei boschi del Trentino e anche nelle stanze del potere locale, dove si sta rivivendo a distanza di 3 anni la sciagurata vicenda che portò alla morte di Danizza, un'orsa madre di 3 cuccioli, braccata per giorni in quanto accusata di avere aggredito un cercatore di funghi, è morta per effetto di una dose eccessiva di narcotico somministrato a distanza con un apposito fucile. La vicenda si sta ripetendo perché nei giorni scorsi un uomo di 69 anni ha lanciato un allarme via telefonino da un bosco nella zona dei laghi di Lama, a circa 10 km dalla città di Trento. I soccorritori lo hanno trovato ai piedi di un piccolo dirupo dove era caduto, ferito a un braccio e a una gamba. L'uomo ha raccontato di essere stato preso alla sprovvista e aggredito da un orso, il quale si sarebbe avventato su di lui senza alcun motivo, mordendolo al braccio e poi trascinandolo, fino a farlo cadere nella scarpata. Questo episodio ha scatenato una nuova emergenza orsi in Trentino. I più oltranzisti, come sempre avviene in questi casi, hanno chiesto subito l'eliminazione fisica dell'orso. La provincia autonoma di Trento ha preso immediatamente la decisione di mostrare il pugno di ferro e così il presidente Ugo Rossi ha firmato un'ordinanza di rimozione dell'orso, che quindi dovrà essere catturato, identificato e poi confinato in un recinto. L'ordinanza non esclude neppure, in caso di necessità, la possibilità dell'abbattimento dell'animale. Questa decisione di Ugo Rossi è stata fortemente criticata dalla LAV, Lega Antivivisezione, che ha definito l'ordinanza indegna di un paese civile, in quanto si tratterebbe, sostiene la LAV, di una condanna all'ergastolo o alla morte presa senza processo ed emessa sulla spinta emotiva e irrazionale di un'amministrazione provinciale che vuole pieno il diritto di vita e di morte sugli orsi. L'ordinanza naturalmente ha suscitato l'immediata mobilitazione delle associazioni animaliste e ambientaliste, memori anche della fine toccata a Danizza. Ma la provincia intanto è passata all'azione con le squadre di ricerca già in campo e 3 tubi trappola collocati nella zona in cui è avvenuto il contatto fra l'orso e la persona ferita. Ma la vicenda è diventata subito un caso politico che si gioca attorno al tema della sicurezza e del controllo del territorio da parte della popolazione locale, un controllo che sarebbe insidiato stavolta da una categoria particolare di intrusi, ossia gli animali selvatici, in questo caso gli orsi. È per questa ragione, per il prevalere di questo tema, che è finito in discussione lo stesso Life Ursus, il piano che per anni è stato proposto dagli stessi enti locali trentini come un fiore all'occhiello, un esempio della qualità ambientale della regione e della sua sensibilità naturalista. Ma evidentemente si trattava di un'altra stagione politica. Ora prevale la paura dell'altro e le parole d'ordine, non solo in Trentino e non solo con riguardo agli orsi, sono sicurezza, ordine, padroni a casa nostra, non c'è posto per chi viene da fuori. Si capisce allora che dietro il caso dell'orso si intravedono idee diverse di società, visioni quasi opposte del mondo e della vita. Da una parte c'è l'idea che gli animali selvatici siano individui ai quali dobbiamo garantire la possibilità di esistere in un habitat che per loro sia accogliente, dall'altra c'è l'idea che gli animali possano essere in questa società solo da compagnia oppure da reddito e giammai animali liberi. I'd like to drop my trousers to the world. I am a man of means, of slender means. Each household appliance is like a new silence in my town. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. Such a sad thing. I'd like to drop my trousers to the Queen. Every sensible child will know what this means. The poor and the needy are selfish and greedy on her turn. And if the day came when I to natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. It's such a sad thing. Notizia che solo in apparenza sembra avere poco a che vedere con la caccia all'orso in Trentino, arriva dalla Polonia. La foresta di Białowieża, ammesso che si pronunci così, è l'ultimo lembo di foresta primaria esistente in Europa. Si estende fra la Polonia, appunto, e la Bielorussia. È un tesoro straordinario di biodiversità, l'habitat ideale per innumerevoli specie vegetali e animali, insomma un patrimonio ambientale incomparabile, non a caso protetto dall'UNESCO. Ma anche in Polonia il potere politico ha deciso di applicare alla foresta di Białowieża la regola del tornaconto economico immediato e del principio di proprietà, anziché di custodia del patrimonio naturale. In questo caso è in corso un'enorme opera di disboscamento a fini commerciali. Nel 2016 il governo polacco ha deciso di triplicare il numero degli alberi che è possibile abbattere legalmente. E così il bilancio degli alberi abbattuti dal 2012 a oggi è di circa 180.000. Il commercio del legno è un grandissimo affare e solo nel 2015 avrebbe fruttato circa 2 miliardi di euro. Quindi non sorprende che le motoseghe siano in piena attività. L'attacco alla foresta però evidentemente non è passato inosservato e la stessa Commissione europea ha deferito il governo polacco alla Corte europea di giustizia chiedendo di fermare immediatamente i disboscamenti. Sono entrati in azione anche gruppi animalisti e ambientalisti con proteste e azioni dirette. Ma il governo polacco, guidato dal partito nazionalista e ultraconservatore Diritto e Giustizia, ha liquidato tutto con una certa brutalità. Il ministro per l'ambiente, Jan Žižko, è arrivato a definire illegale la scelta dell'UNESCO di inserire la foresta nella lista dei siti patrimonio dell'umanità e ha aggiunto che per lui l'UNESCO è diventata il progetto pilota di organizzazione libertine e di sinistra dell'Europa occidentale. Attorno alla sorte della foresta si gioca anche

senza dimenticare i turisti che invadono incautamente il loro territorio giusto per farsi un selfie, e gli allevatori che denunciano false aggressioni per avere rimborsi, che infamano gli orsi creando ad arte l'indispensabile necessità di catturarli e rinchiuderli, mentre gli orsi da secoli cercano solo di resistere alla nostra invadenza. Il passaggio dell'orso di Giuseppe Festa, Salani Editori, 224 pagine, euro 14,90. Da alcuni giorni a Roma un gruppo di persone si dà appuntamento alle 18.30 sotto alla statua equestre di Marco Aurelio in piazza del Campidoglio. Non è un ritrovo privato e non è neanche un caso che avvenga sotto una statua equestre. Si tratta infatti di una sorta di sit-in di protesta indetto da alcune associazioni animaliste, EMPA, Animalisti Italiani, Io Libero, LAV, OIPA, per chiedere alla sindaca Raggi e al presidente del Consiglio Comunale De Vito che sia finalmente discussa e messa ai voti la delibera popolare denominata Stop Botticelle, firmata nei mesi scorsi da oltre 10.000 cittadini romani. La delibera di iniziativa popolare chiede che siano revocate le licenze di trasporto a trazione animale che ancora permettono l'utilizzo di 82 cavalli nel traino di carrozze, le botticelle appunto, che sono ormai utilizzate solo per i turisti. Secondo le associazioni, il comune sta rimandando una decisione che potrebbe essere presa subito, prospettando opzioni diverse, come la destinazione delle botticelle ai parchi cittadini, una possibilità che le associazioni definiscono un palliativo, oppure la sostituzione di cavalli e carrozze con botticelle elettriche, una delle quali peraltro ha già fatto comparsa in città, un'opzione che però richiede tempo e denaro, circa 1,5 milioni di euro, e che quindi non sembra a portata di mano. La delibera popolare prevede che le licenze a trazione animale siano convertite in altre licenze di trasporto, in modo che i titolari possano continuare in altra maniera la propria attività, liberando però gli 82 cavalli dal tormento di dover lavorare nel caotico centro storico di Roma. The door. Al rientro a scuola alla fine dell'estate, i 25.000 bambini che frequentano a Torino le scuole elementari troveranno una novità nei menù della mensa. Avranno infatti a disposizione una volta al mese un pranzo interamente vegan, senza proteine di origine animale, per quanto, bisogna precisare, sia ammessa un'eccezione, ossia l'uso del parmigiano come condimento. La scelta della sindaca, per quanto moderata nella sua portata, è stata comunque oggetto di forti critiche, che sono tuttavia niente in confronto a quanto sta accadendo in Argentina al presidente Mauricio Macri, dopo che ha introdotto il cosiddetto lunedì vegano nella mensa della Casa Rosada, il palazzo presidenziale. Il segretario alla presidenza ha spiegato così la novità: vogliamo che tutti gli impiegati della Casa Rosada comincino la settimana in modo sano, come riportato in un articolo del quotidiano La Repubblica dei giorni scorsi. Il presidente Macri, con questa decisione, si propone di dare il buon esempio agli argentini, che tendono ad avere una dieta troppo ricca di proteine e troppo povera di frutta e verdura. Le reazioni negative, tuttavia, sono state numerose, a cominciare dalla protesta manifestata da una parte degli stessi impiegati del palazzo presidenziale, che appunto sarebbero chiamati a dare il buon esempio. Il presidente dell'istituto che promuove il consumo della carne argentina, Ulises Forte, ha commentato piuttosto duramente il lunedì vegano. È strano, ha detto, che ti dicano cosa mangiare. È una forma di fondamentalismo. Uno mangia quello che vuole. Il giornalista di Repubblica Omero Chai, nel commentare la notizia, ha fatto notare come la carne arrostita, l'asado, sia una pietanza connotata politicamente, perché è tipica dei ceti popolari e promossa storicamente dai peronisti di sinistra, che oggi sono all'opposizione. La presidente uscente, Cristina Kirchner, avrebbe deliberatamente proposto una politica sfavorevole all'esportazione di carne per mantenere più bassi i prezzi interni e quindi garantire l'asado a prezzi popolari. Macri starebbe tenendo la linea opposta, favorevole alle esportazioni, con l'effetto secondario di far aumentare il prezzo della carne all'interno del paese. In questo senso, secondo il giornalista, l'asado sarebbe di sinistra, peronista, mentre il lunedì vegan sarebbe di destra, coerente quindi con l'impostazione politica del presidente Macri. Ma tutto questo, aggiungiamo noi, a prima vista sembra più che altro folklore. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, bang bang. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup. L'alimentazione vegana è in grande trasformazione. Abbiamo detto di Torino e Buenos Aires, con i menù vegan che fanno breccia nelle mense comunali e addirittura la Casa Rosada di Buenos Aires, e più in generale ci sembra di poter affermare che l'alimentazione vegana si sta scrollando di dosso con grande velocità la nomea che l'ha circondata a lungo d'essere triste, penitenziale, povera di gusto e carente nell'estetica. Non si contano ormai i libri di ricette, i corsi, i blog specializzati, per non parlare dei ristoranti. E ne sappiamo qualcosa anche noi di Restiamo Animali, visto che da 5 anni, cioè da quando la trasmissione va in onda, dedichiamo uno spazio importante all'arte di cucinare, grazie ad alcuni bravissimi chef che si sono alternati nella rubrica Il Pasto Gentile, appannaggio ormai da qualche tempo del tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore fra l'altro di un libro dedicato alle cucine regionali, rivisitate in chiave cruelty free, quindi con pietanze ottenute senza nuocere ad alcun essere vivente. Oggi Gabriele ci propone un classico piatto dell'estate, nato nel sud Italia. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Kids. piatto che non ha bisogno di presentazioni, un classico della cucina siciliana che con qualche piccolo accorgimento diventa vegan. Maccheroni alla norma. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 litro di latte di soia, 20 ml di succo di limone o aceto di mele, 400 g di maccheroni, 500 g di pomodori pelati, 3 melanzane lunghe, una cipolla piccola, basilico fresco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, olio per friggere e sale. Mettete il latte di soia sul fuoco e quando inizia a bollire girate con un cucchiaio di legno e aggiungete il succo di limone o l'aceto di mele. Spegnete il fuoco e continuate a mescolare aspettando che si formino i fiocchi di caglio. Lasciate riposare mezz'ora e vedrete che il caglio si depositerà sul fondo, immerso nel siero trasparente. Delicatamente eliminate il siero e successivamente, con l'aiuto di un colino, filtrate i fiocchi e metteteli in una formella. Fate riposare in frigorifero almeno per un'ora. Mettete la ricotta di soia su un foglio di carta forno e fatela asciugare a 100 gradi per un'ora. Lavate le melanzane e tagliatele a fette sottili. Disponetele in un colapasta e cospargete con del sale grosso e lasciate spurgare con la pressione di un peso per almeno un'ora. A parte, sbucciate e tritate la cipolla. Mettetela in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Aggiungete i pomodori pelati e passati e lasciate cuocere a fuoco lento per 30 minuti. A fine cottura aggiungete delle foglie di basilico spezzate a mano. Quando le melanzane saranno pronte, sciacquate e asciugatele con un panno. Passatele nella farina di riso e fate friggere in olio ben caldo. Scolate e fate assorbire su carta per frittura, quindi unitele alla salsa. Cuocete i maccheroni in abbondante acqua salata, scolate bene al dente e fate finire di cuocere dentro alla salsa di melanzane. Impiattate e guarnite con la ricotta di soia essiccata tritata finemente. A piacere potete aggiungere dei dadini di melanzana fritta e delle foglie di basilico. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi lasciamo con una breve citazione da Le piccole persone, il libro di Anna Maria Ortese che abbiamo menzionato all'inizio della trasmissione. È un brano che ci può aiutare a riflettere sulla relazione fra noi esseri umani e gli animali selvatici. Dice così: «Io non arrivo a dire che si possa convivere con l'orango. So tuttavia con certezza una cosa, che l'orango non arriva a bruciare i boschi, a ridurre l'uomo e l'altro in allevamenti, a pensare per lui, alla fine, mezzi che lo distruggano totalmente, in un attimo o tra sofferenze senza scampo, solo lasciando intatti i suoi averi. No, l'orango, che non scrive libri e non legge, non arriva a questo. Con Restiamo Animali, ci troviamo fra una settimana, stesse onde, stesso orario. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.